Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Uno dei periodi forse più brillanti nella storia d'Europa, ma conclusosi poi drammaticamente, fu quello dell'Ancien Régime, che in molti paesi, a partire dalla Francia, significò certamente grande sfarzo per pochi, crescita delle disuguaglianze, assolutismo ferreo, ma anche grande vivacità intellettuale, elementi che concorsero tutti insieme a creare le condizioni poi per quel cocktail esplosivo che fu la Rivoluzione Francese. E proprio di questo ci parla il libro di cui vi voglio parlare stasera, cioè il libro di Benedetta Craveri, che è una grande esperta della Francia pre-rivoluzionaria e che ha scritto Gli ultimi libertini, pubblicato da Adelphi, 620 pagine, 27 euro. Il libro è praticamente diviso in due parti. Nella prima troviamo la presentazione di un gruppo di 7 aristocratici francesi, ovviamente, che furono protagonisti per varie ragioni dello spumeggiante clima pre-rivoluzionario, e nella seconda, che si intitola 1789, troviamo invece la descrizione di quell'anno fatale che segnò con la Rivoluzione francese appunto l'inizio della fine di quel mondo, che viene qui ricostruito anche attraverso il ruolo che proprio i 7 di cui ha parlato la prima parte del libro svolsero. Chiude il libro una descrizione delle vite di alcune protagoniste di quel mondo dopo il terrore e l'esaurimento della rivoluzione. Quello descritto dall'autrice è un clima del tutto particolare, fatto di salotti, intrighi, amori, ma anche molta cultura, ottima letteratura e magnifica manifestazione di esprit, per usare un termine che fotografa l'unicità di quell'esperienza francese di cui parliamo adesso con l'autrice. Buonasera Benedetta Craveri. Benedetta Craveri, lei comincia questo libro spiegandoci che questo gruppo di persone che ci presenta, di aristocratici, rappresentano un po' una illusione perduta, quella di poter conciliare lo spirito dell'illuminismo e quindi anche una certa ansia riformistica con il gusto per l'epoca e per quelle che erano le caratteristiche dell'epoca. Quindi lei parla di privilegio, di spirito di casta, insomma conciliare un po' gli inconciliabili, come poi dimostrò la Rivoluzione francese. Ecco, che cosa ci racconta allora questo spaccato dell'aristocrazia francese che lei fotografa attraverso le vite di questi 7 personaggi? Io penso che ci racconti soprattutto un'arte del vivere arrivata al suo culmine, al suo zenith. Negli anni Ottanta la civiltà aristocratica mondana francese è un modello per tutta l'Europa. Non esistono più in Francia. Sono morti ormai i grandi pensatori, è scomparso Voltaire, è scomparso Rousseau, è scomparso Diderot, e quello che rimane è questo calco meraviglioso che modella i rappresentanti del mondo aristocratico e alto borghese francese. Sembrano un pochino fatti tutti con lo stampino i miei personaggi, e non è che li descrivo io così. Si descrivono da soli attraverso le lettere, le corrispondenze, gli infiniti commenti che loro fanno su loro stessi. Sono tutti colti, brillanti, spiritosi, infinitamente seducenti. Però al tempo stesso i 7 personaggi che ho preso rappresentano sì un quadro d'insieme, un conversation group, ma sono anche dei grandissimi individualisti che vogliono forgiare il loro destino, e direi che ci riescono. E le loro illusioni non sono tanto illusioni perdute, sono sconfitti dalla fase giacobina della rivoluzione, perché quasi tutti sono dei liberali riformisti e sognano una monarchia di stampo inglese, una monarchia costituzionale. Però gli ideali per cui loro si battono, l'uguaglianza, la libertà, la parità di diritti di fronte alla legge, non sono illusioni perdute. Alla fine trionferanno con la rivoluzione e Napoleone li farà entrare nel codice Napoleone. Quindi loro hanno le loro vite spezzate, ma i loro ideali poi alla fine trionfano. Viste queste premesse, secondo lei si potevano immaginare questi 7 signori che ci sarebbe stata la Rivoluzione francese? Rimasero sorpresi da questa accelerazione che prese la storia? Guardi, la Rivoluzione francese non se la poteva aspettare assolutamente nessuno. l'unico punto di riferimento poteva essere la rivoluzione di Cromwell nel secolo precedente, che aveva assunto comunque delle dimensioni molto diverse. I deputati liberali che si riuniscono nella prima assemblea costituente mettono in atto delle riforme che corrispondono alla cultura dei lumi, al desiderio di riformismo che attraversa tutto il secolo. Quello che nessuno si poteva aspettare è l'irruzione della folla, del popolo, della plebe, chiamiamola così, e lo si vede fin dalle prime battute con la presa della Bastiglia. Ed è questa nuova violenza popolare, questa nuova forza che parla in nome del paese, che verrà poi manipolata dai giacobini, che disarciona completamente i rappresentanti delle élite liberali. Infatti uno degli esponenti di quel mondo che lei cita, Madame de Sabran, che lei definisce lucida nel suo pessimismo, avvertiva che appunto quella rivoluzione si basava soltanto sulla follia da un lato e sulla debolezza dall'altro. Sì, naturalmente Madame de Sabran ha una visione estremamente legata all'assolutismo regio, Madame de Sabran è legatissima a Maria Antonietta, Luigi XVI, è diciamo una conservatrice accanita, ma non lo sono così i miei sei libertini. Chi assume fin dall'inizio una posizione assolutamente tetragona contro gli Stati Generali è il conte di Vaudreuil, amante della Polignac, favorita della regina, che però è stato il protettore di Chamfort. E io cito quella bellissima lettera di Chamfort a Vaudreuil, che gli chiede di scrivere un piccolo pamphlet ironico per prendersi gioco delle pretese del Terzo Stato che vuole contare con il voto individuale, e Chamfort gli risponde, gli scrive la lettera bellissima e famosissima: signor Conte, non è più il tempo di giocare con la penna di Swift o di Rabelais, qui si tratta di un processo fra 24 milioni di uomini e 700.000 privilegiati. Vediamoli da vicino alcuni di questi personaggi. Di uno ha già parlato, l'epoca fa ha detto che sembravano fatti con gli stampini, ma in realtà avevano ciascuno una potente personalità e individualità. Partiamo per esempio dal Duca di Lauzun. Dunque, il Duca di Lauzun è considerato l'ultimo grande Don Giovanni della società d'antico regime. Anche nei ricordi dei sopravvissuti, incominciando da Talleyrand, viene descritto come bello, cavalleresco, coraggioso, ardito, colto e straordinariamente spiritoso e brillante. E noi vediamo che nella prima parte della sua carriera si distingue appunto per le sue conquiste e le sue vicende amorose, ma diventa grande amico di Mirabeau, va agli Stati Generali deciso a sostenere la causa del riformismo, a battersi per una monarchia costituzionale, è intimo amico del Duca d'Orléans, e la rivoluzione lo coglie in realtà intento alla prima delle attività, dei compiti di un aristocratico, che è l'esercito. È un generale coraggiosissimo, a quello che ha guidato la carica degli Ussari a Yorktown in America nella battaglia che ha inflitto agli inglesi la sconfitta decisiva, e lo vediamo generale dell'Armata del Nord durante la rivoluzione. E quando il 10 agosto c'è la caduta della monarchia e del re, Lauzun si pone il problema: che cosa fare? Mantenersi fedele al sovrano o giurare fedeltà alla Repubblica? E sceglie questa seconda soluzione, perché pensa che il suo dovere principale è difendere la patria, difendere la nazione minacciata dalla coalizione delle grandi potenze europee che vogliono spegnere il virus rivoluzionario, e quindi si trasforma in un generale rivoluzionario che difende l'integrità del paese e della nazione, ben sapendo che andrà a finire malissimo, perché le sue stesse origini aristocratiche lo condanneranno prima o poi alla ghigliottina. Quindi diciamo che questo grande dandy, elegante e raffinato, è in realtà un patriota, e lo dimostra alla fine servendo non più il re ma il suo paese. Poi ci sono due de Ségur, il visconte Joseph Alexandre e il conte Louis Philippe. Sì, sono un esempio tipico della immensa spregiudicatezza dell'aristocrazia dell'epoca, perché portano lo stesso nome, ma in realtà il secondogenito è figlio naturale del barone di Besval, il migliore amico di suo padre e del padre ufficiale del marchese di Ségur. Sono due tipi molto differenti. Il giovane, il cadetto, il visconte, si realizza pienamente nell'incarnare, diciamo, l'arte, lo stile di vita, le infinite sfumature della civiltà aristocratica. È un poligrafo, è un versificatore instancabile, scrive per il teatro e rappresenta, diciamo, l'aspetto di messa in scena teatrale di quella civiltà. Il fratello maggiore invece è un uomo ambizioso, con una cultura e una preparazione molto accurati, e va prima a combattere per la libertà degli Stati Uniti, invocando una riforma della monarchia francese che rispetti le libertà in qualche modo democratiche, e poi viene mandato come ambasciatore alla corte di Russia e fa il celebre viaggio con Caterina di presa di possesso della Crimea, il famoso viaggio organizzato da Potemkin. E Ségur, che poi attraverserà la rivoluzione, diventerà tenace nelle sue ambizioni, il grande cerimoniere di Napoleone, e alla fine cadrà in disgrazia sotto la prima restaurazione, si trasformerà in poligrafo, sarà uno scrittore e uno storico molto prolifico, e solo molto molto tardi scriverà delle memorie importantissime, di cui io mi servo abbondantemente, che cercano di spiegare il perché questa giovane elite aristocratico-liberale ha giocato un po' da apprendista stregone, non ha capito dove andavano a parare, ma questo lo dice 40 anni dopo con il senno di poi. Bene, grazie a Benedetta Craveri, autrice di Gli ultimi libertini. Buona serata. Grazie a lei. A questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Pochi giorni fa abbiamo ricordato il secondo centenario della nascita di una scrittrice molto popolare nella letteratura inglese, ma la cui fama ha travalicato i limiti appunto dell'Inghilterra per diventare popolarissima. Si tratta dell'inglese Charlotte Brontë, e che fu la prima di tre sorelle, tutte morte molto giovani, vissero all'incirca poco più o poco meno ciascuna di 30 anni, e tutte grandi scrittrici. In particolare una delle tre, Emily, scrisse un libro molto noto presso tutte le lettrici di molte generazioni, e cioè Cime tempestose. Anche Charlotte fu una grande scrittrice. La sua carriera non fu facilissima, perché i suoi libri, almeno all'inizio, vennero considerati con una certa sufficienza, per esempio quando pubblicò nel 1847 Jane Eyre. A Charlotte viene dedicata una biografia di Lindsay Gordon, che è una scrittrice nata in Sudafrica, autrice di fortunate biografie. Adesso appunto questa, dedicata a Charlotte Brontë, Una vita appassionata, pubblicata da Fazzi, tradotto da Nicola Vincenzoni, 18 euro. Questo libro ha avuto un grande successo nei paesi di lingua inglese, e qui l'autrice ci dà della scrittrice un ritratto inconsueto, che contrasta con quello tradizionale della ragazza vittoriana senza grilli per il capo, una ragazza che invece qui dimostra di avere un carattere di tempra inaspettata. E Fazzi sta pubblicando i testi della Brontë dopo Villette e Shelley. Esce Il professore, che fu il primo romanzo della scrittrice pubblicato postumo, che gli editori l'avevano rifiutato. E questo libro si fa un'esperienza che Charlotte ebbe nel 1842, quando studiava francese a Bruxelles in vista dell'apertura con le sorelle di una scuola in Inghilterra. E questo, tra l'altro, è l'unico libro il cui protagonista sia un uomo fuggito, in questo caso dall'Inghilterra, per trovare una sistemazione come insegnante appunto in Belgio. dove però scoppierà la passione con una ragazza indigente, Della Bronte. Ricordo che Newton Compton ha pubblicato Villette, 510 pagine, 4,90 euro, e Jane Eyre, 410 pagine, 3,90 euro, mentre Castelvecchi ha pubblicato un'altra classica biografia di Charlotte, quella di Elizabeth Gaskell, che fu praticamente una coetanea Della Bronte, e che è un libro che costa 22 euro per 464 pagine. Un'altra grande scrittrice, ma questa non è contemporanea, è insignita del premio Nobel per la letteratura nel 2009, è Herta Müller, di origine rumena, emigrata in Germania nel 1987, di cui Feltrinelli pubblica una conversazione con Angelica Klammer. Il libro si intitola La mia patria era un seme di mela, 206 pagine, 16 euro, tradotto da Margherita Carbonari. Nel libro si racconta la vita della Müller, all'inizio non facile, soprattutto quando la Securitate chiese alla futura scrittrice di diventare ella stessa un'informatrice. La Müller rifiuta, naturalmente, e ciò le provocherà le persecuzioni anche sul posto di lavoro, come testimoniano queste righe quasi esemplari di una pièce da teatro dell'assurdo. Questo tema della sorveglianza, dei fascicoli, dello spionaggio continuerà a lungo a condizionare la vita della Müller, fino alla decisione appunto di lasciare il proprio paese. Alle 6:30 del mattino arrivavo al lavoro e il portiere mi spediva dal direttore. Là c'erano anche il segretario del partito e il capo dei sindacati. E mi sentivo dire che ero inutile, pigra, incompetente, che dovevo cercarmi un altro posto di lavoro. Quella procedura aveva luogo ogni mattina. Per ordine del portiere andavo dal portone d'ingresso immediatamente dal direttore e mi facevo insultare. Prima del permesso di andarmene, arrivava ogni volta la domanda con le stesse parole. «L'hai trovato un altro lavoro?» Allora io dicevo ogni volta con le stesse parole. «Non l'ho cercato. Sono contenta qui nella fabbrica. Vorrei restare fino alla pensione». Lo dicevo con grande tranquillità, senza la minima ironia. Era per me una soddisfazione, un piccolissimo e debole sadismo, perché ogni volta il direttore perdeva il controllo. Domani ricordiamo il 25 aprile, allora vi segnalo un titolo sugli orrori del nazismo e sulla difficile impresa di fare i conti, in questo caso, con la storia della propria famiglia. Il libro di cui vi parlo ci presenta una famiglia tedesca coinvolta appunto in quegli anni drammatici nelle vicissitudini del nazismo. Si tratta della famiglia dei Battiani-Thyssen, di cui ci parla un erede, Sascha Battiani, che oggi vive a Washington ed è il pronipote della protagonista della storia raccontata in Le bestie di Rechnitz, pubblicato da Rizzoli, 286 pagine, 18 euro, e tradotto da Deborah Rancati. Rechnitz è il castello nel quale si svolse una mitica festa il 24 marzo 1942, una festa durante la quale, a pochi passi all'interno della stessa proprietà, le SS uccidono 180 ebrei in una casa di cui è proprietaria la zia dell'autore, la cui memoria venne rimossa dalla famiglia. Sasha vuole scoprire la verità, indaga sulla responsabilità di questa prozia in un'inchiesta che si sviluppa in questo libro e che parte dal diario della nonna e che lo porta a visitare varie parti del mondo fino alla scoperta del bandolo che aveva a lungo ricercato. Sul drammatico periodo della Seconda Guerra Mondiale e dell'oppressione nazista vi segnalo il libro Gli Invisibili, della storica Mirella Serri, che insegna all'Università Sapienza di Roma, la storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia. Questo è pubblicato da Longanesi, 232 pagine, 16,40 euro. Cominciamo dalla fine, cioè dal 28 aprile del 1945, quando un gruppo di 200 prigionieri dei tedeschi arriva in un centro dell'Alto Adige a Villa Bassa, vicino al lago di Braies. Questi 200 prigionieri sono un manipolo dei cosiddetti prigionieri d'onore o prigionieri speciali, cioè personaggi molto famosi, di grande nome, di importante condizione sociale, che vennero detenuti in vari lager e che nelle mire soprattutto di Himmler avrebbero potuto diventare merce di scambio in future trattative. Tra questi c'era un esponente della stessa famiglia Thyssen, c'era l'ex cancelliere austriaco Schuschnigg, c'era l'ex sindaco, l'ex borgomastro di Vienna, c'era addirittura l'ex primo ministro del Fronte Popolare, il francese Léon Blum, e c'erano anche degli italiani naturalmente, fra i quali Mario Badoglio, che era il figlio del maresciallo Pietro, Carlo, il generale Sante Garibaldi, nipote dell'eroe dei due mondi, fascisti, c'erano anche dei fascisti, Tullio Tamburini ed Eugenio Apollonio. Insomma, uno spaccato di classe dirigente di cui il documentato libro della Serri ci rivela le peripezie, sollevando il velo su una pagina poco nota della storia europea. Tra l'altro, dal libro emerge la figura del principe d'Assia, filo nazista e vicino a Göring, tessitore dei rapporti tra Mussolini e Hitler, e che poi fu lui stessa vittima probabilmente anche di uno specie di doppio gioco che stava conducendo. Il principe d'Assia era marito della figlia di re Vittorio Emanuele, la principessa Mafalda. La principessa Mafalda, quando il marito viene arrestato, cade in una trappola che le preparano i nazisti, e la stessa verrà poi presa prigioniera e condotta nel lager di Buchenwald, dove morirà. Un grande personaggio della letteratura e del giornalismo italiano fu Indro Montanelli, la cui vita giovanile viene ricostruita da un giovane giornalista italiano, Salvatore Merlo, in Fummo giovani soltanto allora, la vita spericolata del giovane Montanelli, pubblicato da Mondadori, 226 pagine, 20 euro. E Fummo giovani soltanto allora è una frase dello stesso Montanelli che egli scrisse a Leo Longanesi, uno dei suoi maestri di giornalismo, e Montanelli cita questa frase per ricordare la sua partecipazione, che all'inizio fu poco convinta, al fascismo. Col fascismo poi Montanelli rompe, addirittura nel 1944 sarà a un passo dalla fucilazione da parte delle SS che lo tengono in carcere a San Vittore, dove conosce Mike Bongiorno. E qui c'è la svolta che Montanelli così spiegò. Mai più adunate oceaniche. Addio Greggi in camicia nera. E con la giovinezza tramonta anche la sua accesa partigianeria di ragazzo. Scrive nel 1945: ecco perché diventai antifascista. Non perché al posto di Mussolini ci volevo un altro, ma perché non ci volevo nessuno. Io volevo stare alla finestra. Io volevo avere il diritto di dire che il governo faceva belle strade, e in ciò era da lodare, ma spendeva troppi soldi per i cannoni, e in ciò era da biasimare. Io volevo avere il diritto di vedere un bel film americano invece che un brutto film italiano. Forse sbagliavo, ma volevo avere il diritto di sbagliare e poi di accorgermi da solo dello sbaglio. E soprattutto, volevo avere il diritto di non pensare alla politica, di disinteressarmi della politica, perché la politica, la gente da bene, non la fa. Quando la guerra era ormai finita e il fascismo caduto, Montanelli aveva già alle spalle una prodigiosa carriera di giornalista e di inviato, che Merlo ricostruisce con precisione facendo balzar fuori un ritratto di quel grande giornalista che in quegli anni affilò le armi per diventare uno dei più grandi professionisti del suo tempo. E a questo punto il confettino di Paola Soriga, vi segnalo La guerra di Martina con le illustrazioni di Lorenzo Terranera, pubblicato dalla Terza, 62 pagine, 14 euro, che ci presenta la storia ambientata nell'Oltrepò pavese in una domenica di aprile dei nostri tempi, quando la visita alla nonna diventa una testimonianza involontaria di storia, anche questa ambientata in quelle colline, naturalmente, in quei mesi drammatici, quelli del 45, durante la resistenza, alla quale parteciparono anche dei partigiani molto molto giovani. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.